da dissipare col tempo. Persa la speranza, articolazione sinfonica. Resta l'inchiostro codificabile e qualche intesa pittorica. Allora il mio verbo, hai già pianto per i tuoi fiori morti, potevo io essere la turba dei tuoi giardini. Sana, sana, eso sí es un hijo.